Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Il presidente Barroso ha citato nel corso della sua esposizione il caso, e per l'Italia è una vera piaga, della disoccupazione giovanile. Noi non possiamo lasciare sulle spalle delle generazioni più giovani e di quelle che verranno questa spaventosa eredità. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Alla fine lo scandalo della insostenibile disoccupazione giovanile è esploso anche in Europa, come avete ascoltato dalle parole del Premier Monti e del Presidente Napolitano. E l'Italia, con il 31% dei giovani disoccupati, dati Istat, è tra i paesi in prima linea. Ma lo sapete che ben 6 giovani su 10 vogliono fuggire da questo paese? Un paese che l'Eurispes non esita a definire bloccato da una classe dirigente ancorata a privilegi feudali? Che futuro possiamo avere se non riusciamo a rompere questo blocco, questa cappa medioevale, riportando qui chi all'estero ha imparato a giocare secondo regole trasparenti e meritocratiche? Oggi torniamo a parlare di ricerca, mostrandovi un modello che funziona, quello scozzese, dove basta essere giovani, avere idee, oltre che una spiccata tendenza verso l'innovazione per fare carriera. È più facile fare ricerca all'estero per una serie di motivi. Uno, ci sono più opportunità. Due, c'è più visibilità. Tre, c'è più libertà di portare avanti le tue idee. Elisa Vignaga, 30 anni, è una ricercatrice e docente in Scozia. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Quasi 6 giovani su 10 tra gli under 24 sono disposti a intraprendere un progetto di vita all'estero, lo afferma il rapporto Italia 2012 dell'Eurispes. La percentuale è quasi identica, salendo fino agli under 35. Solo sopra quota 35 anni scende sotto la metà. La prima motivazione della fuga è dettata dalle maggiori opportunità lavorative oltre le Alpi. Più in generale, l'Eurispes disegna un paese a corto di speranza, con un senso di depressione che attraversa tutte le classi sociali. E per il presidente Gianmaria Fara, la responsabilità dell'attuale situazione appartiene a tutta la classe dirigente. Sentiamo Fara a Focus Economia. La differenza tra l'emigrazione di un tempo e l'emigrazione di oggi è che un tempo si emigrava con la valigia di cartone, oggi emigrano i cervelli, emigrano le intelligenze che trovano all'estero un'accoglienza diversa. Chi ha voglia di fare, chi ha voglia di emergere, è evidentemente disposto anche a spostarsi, a rimettersi in gioco, a fare una scelta di vita diversa. Ma oggi parliamo anche di un'Europa che, complice la crisi, sta perdendo risorse umane, in particolare l'Europa del Sud. Nel 2011 sono partite dalla Spagna quasi 600.000 persone, dal Portogallo quasi 120.000, mentre si stimano in 50.000 gli irlandesi emigrati lo scorso anno. Dublino ha messo in conto nei prossimi mesi una fuoriuscita di 50.000 giovani. L'Ufficio federale di statistica tedesco ha registrato un massiccio incremento di immigrati. Nei primi 6 mesi del 2011 circa 435.000 persone sono andate in Germania a cercare lavoro, primeggiano spagnoli e greci. Aggiungiamo che in neppure un semestre ben 4.000 greci si sono trasferiti in Australia. In Europa sono oltre 5 milioni e mezzo i giovani disoccupati. Ma c'è anche chi stende tappeti rossi ai talenti. Il Brasile si prepara a dare il benvenuto a migliaia di lavoratori specializzati. Brasilia sta mettendo a punto una nuova politica dell'immigrazione che autorizzerà l'ingresso di 400.000 professionisti nelle imprese. Tutti questi dati hanno fatto scattare l'allarme rosso a Bruxelles. Per la Commissione europea dobbiamo agire ora, è inaccettabile che ci sia un livello così allarmante di giovani senza lavoro. Bruxelles stima in 2 miliardi di euro la settimana il costo dei giovani senza impiego. Un team comunitario, ha spiegato il presidente Barroso, lavorerà con i governi nazionali e le parti sociali per creare occupazione anche con l'aiuto dei fondi comunitari non spesi, per l'Italia 8 miliardi. L'obiettivo è assicurare a tutti i giovani, una volta conclusi gli studi, offerte di lavoro e di apprendistato entro pochi mesi. In esclusiva a Giovani Talenti lo state ascoltando, il presidente dell'Europarlamento Martin Schulz denuncia il fenomeno della fuga dei cervelli dall'Europa del Sud è già una realtà, dobbiamo investire in un piano di rilancio per l'occupazione giovanile. Sempre a Giovani Talenti, il vice direttore della DG Educazione e Formazione della Commissione Europea, Xavier Prats-Monnet, affronta il caso Italia. L'Italia è un paese che non riesce ad adeguare e a offrire ai suoi giovani abbastanza posti di lavoro adatti alle loro competenze ed è uno dei problemi che effettivamente può dar luogo alla fuga dei cervelli se i migliori non trovano lavoro. Ed è questo aggrava ancora la situazione, perché non solo il sistema non risponde alle necessità, ma quelli che riescono meglio partono. Il 28% delle aziende italiane non avvierà alcuna assunzione di giovani laureati in assenza di un'approvazione in via definitiva dei nuovi provvedimenti sul mercato del lavoro. L'allarme arriva da Bachelor, che ha lanciato un appello al ministro del lavoro Elsa Fornero a fare presto nell'approvazione della riforma dell'impiego. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un direttore per la direzione società dell'informazione e media alla Commissione Europea, scadenza per il CV 9 febbraio, info su ec.europa.eu. Un International Change Manager per Save the Children in Gran Bretagna, scadenza per il CV 6 febbraio, info su savethechildren.org. E infine un professore di scienze legate alle biomasse molecolari all'Università olandese di Wageningen, scadenza per il CV 20 febbraio, info su vur.nl. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta nelle spettacolari lande della Scozia per scoprire un altro mondo in tutti i sensi. Nome: Elisa. Cognome: Vignaga. Età: 30. Città di origine: Cesemaggiore Belluno. Studi: ingegneria per l'ambiente e il territorio. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2006. Per andare dove? A Glasgow, in Scozia. Perché? Per fare l'Erasmus. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono una ricercatrice. Dove? All'Università di Heriot Watt a Edimburgo. Tornerai? Non per il momento. Ready to go, Repubblica, un inno all'emigrazione potremmo dire. La tua storia, Elisa, una volta di più ci conferma la necessità di lasciare almeno per un po' la penisola. Tu scrivi a giovanitalenti@radio24.it. Inutile dire che se fossi rimasta in Italia non sarei mai riuscita a lavorare in laboratorio durante la laurea specialistica, scrivere un articolo di giornale durante il master, ottenere un dottorato in 3 anni e mezzo, prendere parte a conferenze internazionali e ottenere un assegno di ricerca alla fine del dottorato. Elisa, allora sarò diretto: per fare ricerca sul serio occorre andarsene dall'Italia? Secondo me indubbiamente è più facile fare ricerca all'estero per una serie di motivi. Uno, ci sono più opportunità. Due, c'è più visibilità, puoi andare a conferenze e crearti un network di persone. E tre, c'è più libertà di portare avanti le tue idee. Partiamo dai tuoi studi: ingegneria per l'ambiente e il territorio a Trento, non proprio una passeggiata vista al femminile. Cosa ti ha spinto verso quel campo? Secondo me è un corso di studi molto eclettico, che ha in sé tantissime discipline, dalla fisica alla chimica all'ecologia e fino all'idraulica, e la cosa che mi è piaciuta era il taglio ambientale. E nel 2005 arriva la laurea triennale. Apriamo una piccola parentesi: qual è il tuo giudizio complessivo sulla qualità dell'istruzione in Italia? Secondo me l'istruzione in Italia è eccellente, prepara dei ricercatori e all'estero lo sanno. Il problema è che finiamo l'università molto più tardi dei nostri compagni europei. Subito dopo ti iscrivi alla laurea specialistica, sempre a Trento. In questo periodo arriva la svolta che cambierà la tua vita: un Erasmus all'università di Glasgow, Scozia. Perché innanzitutto l'Erasmus? Erasmus prima di tutto per imparare la lingua, quindi è assolutamente una scelta. Andare via e tornare a casa con un bagaglio più arricchito. Braveheart, ci trasferiamo in Scozia. Com'è stato l'impatto con la Scozia, Elisa? Raccontiamo cosa significa nella pratica lasciare amici e famiglia, cercare casa, cambiare abitudini. L'impatto con la Scozia è stato piuttosto complicato. Prima di tutto la lingua è stata un problema. Ti trovi ad arrivare e fai fatica a capire, magari devi fare tutta la burocrazia relativa all'università o praticamente trovare un appartamento e tutto. È molto difficile, a dire la verità, e per risparmiare mi sono trovata in un appartamento in cui non avevo neppure la lavatrice, quindi molti compromessi. Questo a chi dice: ma questi snob che vanno all'estero? No, sono ragazzi che prendono la valigia e hanno il coraggio di cambiare vita. In 6 mesi, dai 4 esami, scopri un approccio molto diverso allo studio. Per farla breve, decidi di punto in bianco di passare al Master in Management Ingegneristico delle Risorse d'Acqua all'Università di Glasgow. Se ho capito bene, abbandoni la laurea in Italia. Perché? A dire la verità non volevo abbandonare la laurea, però volevo fare questo Master, e il Master mi ha dato la possibilità di farlo, e praticamente volevo tornare in Italia e convertire gli esami, però alla fine non ho dovuto farlo perché mi hanno offerto di rimanere. La tua carriera si snoda veloce, la tesi del Master si rivela un successo con un progetto in laboratorio considerato molto innovativo che ti procura pure una distinction, e sono i tuoi stessi professori che ti chiedono di restare per iniziare un dottorato, procurandoti persino i fondi. L'avresti mai messo in conto proveniendo dall'Italia? Assolutamente no, praticamente loro si sono resi conto che avevo voglia di fare, che stavo facendo un buon lavoro, e quindi mi hanno detto: se vuoi rimanere ci sono dei fondi e noi ti prepariamo per un colloquio con il capo del dipartimento. In quale campo stai conducendo il dottorato? Sto facendo dei modelli fisici di erosione e trasporto solido nei fiumi. La valorizzazione del tuo talento non finisce qui, perché oltre a inviarti a presentare il tuo lavoro in varie conferenze in giro per il mondo, vieni assunta come ricercatrice presso la Heriot Watt University di Edimburgo e insegnerai pure fino a settembre. Raccontaci. Bisogna proprio dire che ero nel posto giusto al momento giusto. Mi hanno chiesto di sostituire una maternità, quindi praticamente insegnerò un corso sul rischio idrogeologico che io avevo fatto durante il master. Con la tua storia ci fermiamo qui. Preciso però che a neppure 30 anni sei stata anche eletta segretario generale del Network Europeo dei Professionisti Ambientali. Veniamo al dunque. Tu a giovanitalenti@radio24.it hai inviato una bella lista di differenze tra la Scozia e l'Italia. Punto primo, la selezione a Glasgow ti hanno scelto per un dottorato perché avevano apprezzato il tuo lavoro. Cosa accade ai tuoi amici in Italia? Secondo me i miei amici in Italia fanno molta più fatica, vanno attraverso molte più selezioni e passa molto più tempo prima che trovino un dottorato. Punto secondo, meritocrazia. Ci spieghi in modo secco, al di là delle montagne di parole e fiumi di inchiostro che continuiamo a versare inutilmente in Italia, come funziona in Scozia. Quello che fai in Scozia ti ritorna, quindi se tu dimostri interesse e volontà ci sarà sempre qualcuno pronto ad ascoltarti. Punto terzo, progressione di carriera. In Scozia appare tutto tremendamente logico, libertà di scelta e massima autonomia sulla tua ricerca, in cambio di risultati concreti e innovazione reale. In Italia di quale ricerca ti saresti dovuta forse occupare? Penso che in Italia sarebbe stato più portare avanti quello che il tuo professore vuole che tu faccia, più che le tue idee. Punto quarto, l'età. Vogliamo dire quanti anni ha il tuo supervisore? Qual è l'età del professore più alto in grado nella tua facoltà? E soprattutto ci spieghi quanto si tengono aggiornati i tuoi docenti anziché sedersi sulle comode poltrone di comando. Il mio professore ha 50 anni e lui è sempre sulla cresta dell'onda della ricerca e non a caso pubblica in giornali come Nature. E la mia professoressa ha 34 anni e ha appena ricevuto un passaggio di grado, quindi fra poco arriverà la professorship anche lei. Raccontiamolo in Italia perché la gente deve sapere. Punto quinto, i salari. Quanto sono competitivi in Scozia e quanto è facile reperire i fondi a differenza dell'Italia? In Scozia è molto più semplice reperire i fondi. Fai conto che a Glasgow ci sono minimo 30 borse di studio per dottorati all'anno solo nella School of Engineering e a Edimburgo solo in ingegneria civile ce ne sono 10 e se sei studente in Scozia non paghi i servizi, non paghi le tasse come l'acqua e l'immondizia. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Non credo che tornerò in Italia, il mio paese mi manca davvero tanto e sarebbe bello tornare e trovare il dinamismo che ho provato qui, ma i tempi non sono maturi. Dopo essermi abituata a questo standard farei fatica a rientrare nello schema della nostra università. E come darti torto quando spendiamo qui l'1,2% del PIL in ricerca e sviluppo? Hai però l'impressione che qualcosa stia cambiando, Elisa, che in un prossimo futuro potrai gettare ponti col tuo paese, oppure siamo troppo lontani dall'Europa per provarci? Secondo me il desiderio di cambiare c'è e ci sono voci che la ricerca che hai fatto all'estero e i contatti che hai all'estero serviranno per ritornare in Italia, magari non al momento, però io veramente ci spero in questo. E te lo auguriamo di cuore. Nella lettera che ci hai inviato dalla Scozia parli anche dell'interessante comunità di giovani professionisti italiani che hanno scelto le lande di Braveheart per vivere e lavorare. Cosa li accomuna? Li accomuna il desiderio di fare quello che a loro piace, soprattutto di portare avanti quello per cui hanno studiato, quindi di non accontentarsi anche se questo vuol dire lasciare l'Italia. Come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? Ho aperto un po' gli occhi da quando sono qui e quando parlo con i miei amici scozzesi, per esempio, mi chiedono come fanno gli italiani a non rendersi conto che la loro informazione è molto manipolata e a non dire niente. Oppure, dal punto di vista dell'università, abbiamo un po' da fare, dobbiamo prima di tutto imparare meglio l'inglese, magari fare più corsi in inglese all'università, fare un percorso di studi che ti permetta di finire quando hai 20-23 anni come i nostri colleghi europei e avere più libertà per i giovani e più spazio per noi. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani immigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Elisa Vignaga, 30 anni, ricercatrice tra Edimburgo e Glasgow in Scozia. Elisa vi è giunta dopo un Erasmus, per l'appunto in Scozia, che ha costituito il punto di svolta della sua carriera. Prima un master a Glasgow, poi un dottorato, infine un contratto come ricercatrice e persino una docenza in una terra dinamica e accogliente verso gli stranieri. Dalla Scozia Elisa riflette sulle opportunità ricevute oltre manica, constatando amaramente l'impossibilità al momento di ottenerle anche in Italia. Ci raggiunge ora in linea Marco Crepaz, direttore dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e coordinatore del progetto bellunoradici.net. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Sergio, a tutti i radioascoltatori. Marco, quanti giovani talenti bellunesi come Elisa rendono onore all'Italia nel mondo e secondo la tua esperienza quali sono i motivi che li portano all'estero e li trattengono là? Sono centinaia nelle più diverse attività professionali, dalle università agli uffici tecnici, dalla ristorazione all'arte, all'innovazione e alla tecnologia. Li spinge ad andare all'estero la curiosità, la formazione, la voglia anche per il fatto perché verso i giovani il nostro paese è sempre meno, io metto le virgolette, amico. Allora Marco, parliamo della vostra associazione Bellunesi nel Mondo, associazione storica, ha quasi 50 anni, associazione che nasce come network tra i migranti e che ora dà voce a un territorio esteso ai quattro angoli del pianeta. Quanti sono i bellunesi all'estero? Sono circa 500.000, a oltre il doppio della nostra provincia di Belluno. Allora Marco, l'iniziativa più recente e interessante riguarda il social network bellunoradici.net. Oggi sei ospite in onda non a caso perché Elisa fa parte di questa comunità, è anche lei bellunese. Avete attivato in sinergia con la Camera di Commercio della provincia di Belluno questo network e siete andati a cercare le eccellenze umane del vostro territorio nel mondo. In quanti vi hanno risposto? All'interno del social network sono circa 400 gli utenti, e l'età media è dei 39 anni, rappresentano 42 paesi, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dalla Francia, Cina, Giappone. Marco, una nota negativa: non è preoccupante che molti giovani qualificati lascino il ricco tessuto produttivo del nord-est per cercare opportunità migliori all'estero? È un fenomeno che vedi in crescita? Sì, guarda, purtroppo perdere energie intellettuali e capacità innovative è sicuramente doloroso e amaro. Soprattutto secondo noi manca il dialogo che non c'è tra questi talenti che partono per l'estero e tutte le imprese e le istituzioni che invece sono presenti nel nostro territorio. Voi state gettando ponti con queste eccellenze, mettendone in contatto con gli studenti, le aziende, le istituzioni locali. Allora, qual è il feedback per ora? Per questo momento il feedback è buono. Stavo proprio dicendo che il progetto di bellunoradici.net sta proprio nel fatto che vogliamo creare un canale diretto con questi talenti che vivono all'estero e le nostre imprese e aziende. Al momento all'interno del nostro social network sono presenti delle aziende leader a livello mondiale che stanno già colloquiando con queste persone, e quindi c'è un feedback sia tra queste aziende e istituzioni locali con questi talenti, ma nello stesso modo anche tra i talenti e queste aziende. Quindi l'obiettivo è anche cercare di gettare ponti e riportarli indietro, o comunque poter collaborare con loro. Poter collaborare con loro e portare quindi i problemi che ci sono nella nostra quotidianità, nel nostro caso della provincia di Belluno, una realtà piccola di montagna, e capire appunto, grazie alle loro eccellenze, come possiamo crescere assieme a loro, e in questo caso anche poter creare un possibile futuro anche a loro per un possibile loro ritorno in provincia di Belluno. Ed Elisa è già una del team. Appunto, anche perché appunto non è fatto solo di figurine come potrebbe essere Facebook, ma per esempio nel mese di dicembre abbiamo fatto il primo incontro qui a Belluno in cui abbiamo invitato questi talenti, e tutti questi ragazzi hanno veramente lanciato un messaggio, sottolineo concreto, per un futuro possibile all'interno del nostro territorio della provincia di Belluno. Grazie a Marco Crepaz. Domanda diritto a Elisa Vignaga: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Quello che dovrebbero fare è aprire gli orizzonti. A un ragazzo della mia età direi: se non trova un dottorato in Italia, fate come me, cercatelo all'estero e cercatelo in università per cui valga la pena studiare. Poi un'altra cosa: tenersi sempre informati, e alla fine l'ultimo consiglio: andate in Erasmus e vedete altre culture, imparate una nuova lingua. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire la nuova emigrazione. Oggi quarta puntata della nostra inchiesta sulle parole che fanno fuggire i nostri migliori giovani talenti all'estero. Parliamo degli outsider, dei battitori liberi. La parola di oggi è raccomandazione o cooptazione. Paolo Casicci, coautore del libro Scurriculum, viaggio nell'Italia della demeritocrazia. Se raccomandazione è la parola che conosciamo da anni, perché, come dire, racconta la solita storia dal punto di vista del raccomandato che appunto riesce a trovare un posto di lavoro grazie a una segnalazione all'amico, al parente potente. Cooptazione per certi aspetti è l'altro lato della medaglia, nel senso che anche chi raccomanda e ti dà un posto di lavoro al suo tornaconto, se chi ti raccomanda e ti piazza in un ufficio pubblico alla dirigenza di un'azienda di Stato, di una municipalizzata, lo fa perché anche lui a sua volta ha un vantaggio, che è quello di essere riuscito a creare in qualche modo una corte di vassalli al suo servizio che esegue i suoi desiderata e riesce appunto in questo modo a circondarsi di gente a lui gradita. C'è anche la vasta schiera dei figli di chi è raccomandato per parentela. Questo è un altro male tipicamente italiano. Non solo c'è la vasta schiera dei figli di, ma c'è anche un indotto legato ai figli di, l'indotto di gente che gravita attorno a loro, e in qualche modo anche questa va premiata con incarichi e consulenze. Ma al di là della politica, questa pratica del figlio di qualcuno trova poi molto riscontro anche nelle professioni. Quello assolutamente, ci sono diverse indagini che confermano come l'Italia sia in questo senso un paese bloccato. La gran parte degli architetti è figlio di architetti, così come i notai, gli avvocati, anche il mondo delle professioni si trasmettono insieme ai geni anche appunto le professioni stesse, i titoli e anche se si eredita il lavoro in qualche modo, si eredita il pacchetto di clienti dal padre o dalla madre. E in un'Italia dove la classe dirigente di fatto è composta da figli di, raccomandati da, cooptati da, i migliori se ne vanno. E i migliori scappano. Adesso più che scappare, secondo me ormai sta un po' entrando nel patrimonio genetico dell'italiano, del giovane italiano, il concetto che più che una fuga ormai consideriamo un'ordinaria amministrazione quella di studiare e mettiamo già in conto da prestissimo di dover andare via. Purtroppo è così. Se vediamo questo problema da un punto di vista economico ci accorgiamo che c'è un enorme costo degli scuriculati. Gli scuriculati costano perché rendono inefficienti i servizi che gestiscono e ci costano appunto anche in termini di fuga dei cervelli italiani. Quindi se non vogliamo farne una questione etica, se non altro, guardiamo al portafoglio, guardiamo l'efficienza dei servizi pubblici che ci vengono erogati e forse da quel punto di vista non so, una molla può scattare e spingerci a protestare o a ribellarci. All'estero queste parole, raccomandazione e cooptazione, sono un male endemico come in Italia? No. Per maggiori informazioni, curriculum di Paolo Casicci e Alberto Fiorillo a Liberty Editore. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it e le pubblicheremo sul web. Resta attiva la nuova iniziativa sui nostri canali online. Compiliamo insieme un manifesto di proposte dei giovani talenti italiani per rendere il nostro un paese dove i migliori circolano e non scappano. Aspettiamo le vostre idee. Infine, siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.